purtroppo costa tutto da me. E poi quest'euro qua ci ha messo veramente con, diciamo, senza dare uso di termini, a culo per terra, eh! A culo per terra, anche se è un finale ci tocca per terra. Porca miseria, ragazzi, non vanno niente, eh! Quest'euro qui per noi non vale niente, spesso. dicendo che domenica. Se Claudio fa in tempo a portare lo stoppalo via, devo sostituire il palo. Ma voglio vedere se sono libero domenica. Se sono libero lunedì. No, vabbè, non c'è problema. E è vero che voglio di arrangiarmi da solo, vai. Quando te riesco a portare giù l'antenna, è fatta. No, adesso dipende. Se sono libero domenica, ci potrei salire anche qua più là, non c'è problema. Non c'è problema. Bisogna vedere. Non sono dati conferma ancora, Lucaria, perché non si sa nulla ancora, Avanti. Yeah, I don't know what the fuck I'm gonna do. Cimine, ciao. Scoppiattando un mobiletto e niente. No, non stavo ascoltando, ho detto sul 41 non c'è Luca. Nulla, no, nessun problema, stavo solo ascoltando. Ah, si è appagato. Ho capito, ho capito. Va bene. Tutto, e voi, tutto a posto. Sono capiti. Ma non vi già quasi impiccato. Ah, io posso mangiare. Vabbè, non c'è altro nessuno, non può fare queste cose, solo Claudio, capito? No, non c'è problema. Non problema, tutto a posto. E io sono qui fra voi. Ora vi ho fatto 50 voci di fare a per fare a 10 metri sotto. Per tornare a Bono, per tornare a Bono, per tornare di tutto, cazzo. No, per la volta di... Mo. Ma se mangiare c'è il lacuno. Ma io c'è anche l'omicino per questa, le voci. Via, nel giorno in ascolto. Ciao Mauro. Peppino sono, Mauro, Claudio sono. Io lo so, c'è Claudio, è stato riconosciuto, è stato un po' c'è, c'è cazzo del capo al mondo, cazzo, con quella antenna grande che c'hai. In capo al mondo. In capo al mondo, per modo di dire. Aspetta che passo con la faglietta che mi mette prova, che spengo sto 440, intanto siamo solo noi, no, non c'è problema. Non prima me ne tracce e mezza, adesso le ho sia mai trasferito a Polottone. Cioè veramente ho fritto la sua mezza, ho visto che uscì da Stintino, quindi va bene. Ok, mi sentite? Sì. Va bene, io sto andando con Lafayette, il tale più 3, intanto non c'è problema, già siamo noi. Sì, si già va più che bene. E tu, sto a posto? Intendi il tuo microfono, l'altro microfono. settimane più tre, sto pulendo l'SB. Stavo pulendo con me, sono l'otto. Ah, che appagato. Sì. No, a me è entrato due secondi, come fa sempre lui al solito. Entra morde e fugge. Mi ha chiesto che se mi parlo, devo portare un palo tu, lo so, dell'antenna. E se non mi dichiaro libero, gli ho detto non lo so, io non quello che devo passare domani e venerdì, se sono libero posso venire da te col prima, se non sono libero purtroppo pazienza. E lui ha detto va bene, no? E poi stavo parlando e sempre come al solito vado col muro. E vabbè, mi sta sempre saltando le salsicce le ultime volte, che te devo fare? No, io c'è un volume basso. Quello sono arrivato, non c'era nessuno, allora ho fatto una carrellata di giro, ho visto che c'era questo sul canale 41, mi sono fermato lì ad ascoltare, poi ho girato, al 10 ho sentato lui. Va bene, va bene. E Mauro dice doveva piazzare dei mobili stasera, stava a piazzare coi pesci. No, non l'ho sentito, Brody. Non l'ho sentito per niente, la verità. E sicuramente stava piazzando quei pesci. Sicuramente stava piazzando quei pesci, capite? Non c'è problema. Esce più forte adesso, c'è una bella radio, tutto a posto. Sì, sì, sì, come che è bello. Ha una bella radio, forte. E ha provato a fare chiamata, ma il signorete mi ha impegnato, ho piazzato sì per me e non mi ha risposto, però magari se aveva parlato spento. Sicuramente. Sicuramente c'era la... No, ma detto che non lo spegnevo, lasciava stare acceso. E quindi non lo so. Non lo saccio, non lo saccio. E io tra 10 minuti poi spengo tutto, non vado a nanna, domani mi alzare di nuovo presto. Mi alzare di nuovo presto. Fai il recupero. E meglio proprio una gara, ti dico cazzo, devo andare a recuperare queste cose. Mamma mia, gara, cazzo. E io ti capisco, Fadi. E io lo stesso. Ma dopo un chilo, e me lo vado a nanna anch'io, adesso che ce l'ho con voi. Ah, più stanco di ieri, guarda, per carità, ma non c'è un giorno che non ti ammazzi alla buona, vero? Avanti. Buonasera, ciao Claudio, ciao. Ciao Otto, buonasera, ben ascoltato. Salutoni. Siamo gruppi, facciamo una scelta per l'aria. Siamo gruppi allo sfascio, stasirami, tutti stanchi. Avanti, Anto. Ciao Otto, hai sentito di stacco, 5 minuti e chiudo anch'io perché sono pizzi, oggi sono pizzi più di ieri. Ben sentito per il tratto Otto. Mi sta sentendo la voce, c'è anche stacco. È positivo, una giornataccia oggi guarda, Dio mi ha pensato. Sono giornate positive e giornate negative, e che ci vuoi fare? E così, avanti qua. Ehi, attendiamo un secondo che sta squillando di nuovo. Ah, avanti, avanti. E allora tu, che ci racconti di bello tu? Ci vanno, paesino che c'è qua, qualche anno. È proprio vero. Ti ammazzano la moglie e la più fine, poi le sono tante negative, proprio negative, ma... Oh, si fa politica, diciamo, e si tira, ma a se siete neanche quello, per carità, è vero che quello, ma che si può fare. Ah, ma io ringrazio Claudio, se c'è, se no io sto chiudendo, diciamo, sto là con un spago, che è il problema, non ci faccio. Vabbè, mi faccio la decisione. Vi saluto, ciao Tom, ciao Anton, ci sentiamo il prossimo, statevi bene. A domani che sono più in forma, oggi no, me la faccio manco la favida. Ci sentiamo, ciao, a tutti buonanotte. Ciao Claudio, buonanotte, io sto chiedendo lo stesso. Ciao Tom, passa buonanotte e tutte le prossime. Io me ne vado proprio in chiusura perché no, non ne voglio, non ne voglio. Alle prossime, detto. Ciao Claudia, alle prossime, buonanotte con tutto lei. Ciao, buonanotte, ciao.